non la ricordo manco più. La faccia sporge che non me la vedo da quassù. Se fiascico non è per qualche strana condizione, ma solo per gli ettolitri di birra nelle vene. Il sole l'ho veduto una volta in cartolina. C'è un'aria irrespirabile nei pub di Laurentina. Questa città è così, ma in fondo quanto ce ne frega. La birra e le cazzate sono quello che ci lega. Se mi cerchi tu mi puoi trovare a bere in qualche bar. Dopo cale in mano questa volta che brindiamo. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ed è quasi impossibile trovarti, non lo fa. In pratica è così, tale la sorte del romano. Appuntamento fisso con una chiara media in mano. Saggezza popolare scorre al tavolo di un pub. Storie metropolitane, ma che ve lo dico a fa. Un gomito si alza senza troppi complimenti. Lo seguo a rota un altro e poi a rota un altro i venti. E se mi cerchi tu mi puoi trovare pronto in qualche bar. Dopo cale in mano questa volta che brindiamo. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ed ora andate in pace ed onorate il vostro pub. E ricordate amici, la morale è questa qua. Serate come questa sono il senso della vita. Cacciara, biliardino e mille brindisi alla figa. Se mi cerchi tu mi puoi trovare steso in qualche bar. Col boccale in mano questa volta.